Ragionate bene sul valore delle condizioni. Come potete riscrivere A and B, sostituendo A con vero e B con falso? Ora pensate all'operatore AND. Questo restituisce vero solo se entrambe le condizioni sono vere.